Milva. Ciao, benvenuta. Sappiamo che Milva deve scappare di volata, deve andare in teatro. Ti ho visto l'altra sera, eri bravissima. Complimenti. Grazie. Allora facciamo in fretta, cantiamo questa canzone? Facciamo in fretta. Sì? Cosa ci canti? Aveva un cuore grande. Auguri. Pianto per la vita che ho vissuto prima di te. Se mi ami come sono, non importa chi c'è stato prima di te. Io sarò sincera, francamente ti dirò la verità. È perché tu sai capire tutto di me.